tempus, tempus amoris cubiculum non est, non est, non est. Telescalam! Audite! Audite! Audite, affidite! Catoli, caria. Catoli, caria. Unius, omnes unius, omnes unius, estimemus assi. Vivamus, vivamus, vivamus, veles veat famemus, rumores casinum severiorum, omnes unius, omnes unius, estimemus assi. Dammi basia! Dammi basia bene, bene decentum, bene l'altra dece conta centum, tecus quanta mille bene decentum, dico mille volta vinceremos, conformaremos, e la... Ne siamus! Ne siamus! Ne siamus! Siamus! Ne espandus, in detere quasi tutta consiglia, e se passi l'uomo... Dammi basia! Dammi basia bene, bene decentum, bene l'altra dece Lesbia nostra, lesbia illa, illa lesbia quam Catulus unam plus quam se, atque suos, amavit omnes. Nunc, nunc, nunc, nunc, nunc in quadrivis et angiportis. Nunc in quadrivis et angiportis. Nunc in magnanimi remine potes. Ome a lesbia. Se dicit mulier mea nubre male quam ibi. Nulli se dicit mulier mea nubre male quam ibi. Non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, it's a beta! Non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, non si se Jupiter, ipse per qua. Amanti, amanti, amanti, sit mulier copito pot, sit mulier copito pot, potici, potici, potici, potici, amanti, amanti, amanti. Thank you.

Dulcis ipsi tilla, amavo mea dulcis ipsi tilla, mea delicie meil porres, iube, ad te veniam meridiatum, et ius eris illudat iuvato, et ius eris illudat iuvato, Negvis liminis obsirret tabellam, noi tibi libiat foras abire. Sid domi maneias paresque nobis, sid domi maneias paresque nobis. Novem continuas futuzionas, verum, sic vitades statim iubeto. Nam pransus iatio et satur supinius, perdundo tunicamque paliumque. Amiana puellene futtuta, tota milia mene tempo posti, ista turpicolo puella naso, de coctoris amica formi ani, propinqui, quibus est puella curae, amicos medicos ve conducate, non est sana puella, ne crocare qualisi, solide stima, Fui la bella, fui la bella, fui la bella, fui la bella. federe tanta, quanti in amore tu es patere per tamias. Nunc est mens deducta tua, via lespia culpa, ad vita sofficio perdit dit ipsa suo, tua, via lespia culpa, usia me bene bene featili, si Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona, Lissabona,